Adesso l'inverno sembrava più lungo. Laura e Mary cominciarono ad averne abbastanza di stare sempre chiuse in casa, specialmente la domenica il tempo non passava mai. Ogni domenica Mary e Laura venivano vestite di tutto punto con gli abiti migliori, con nastri ben stirati e annodati nei capelli. Erano molto pulite di domenica perché si erano fatte il bagno il sabato sera. D'estate facevano il bagno nell'acqua presa dalla sorgente, ma d'inverno papà colmava la tinozza di neve pulita che si scioglieva sulla stufa fino a diventare acqua. Poi, vicino al tepore della stufa, dietro un paravento fatto con un lenzuolo steso fra due sedie, la mamma faceva il bagno a Laura e poi a Mary. Laura veniva lavata per prima, perché era più piccola di Mary. Doveva andare presto a letto il sabato sera con Charlotte, perché dopo che era stata lavata e infilata nella camicia da notte pulita, papà doveva svuotare la tinozza e riempirla di nuovo di neve per il bagno di Mary. Poi, dopo che anche Mary era stata messa a letto, toccava alla mamma farsi il bagno dietro al lenzuolo che faceva da paravento. E quindi era la volta del papà. E così, il giorno seguente, erano tutti quanti puliti. Di domenica Mary e Laura non dovevano correre o urlare o fare chiasso giocando. Mary non poteva cucire i pezzi colorati della sua grande trapunta imbottita e Laura non poteva lavorare ai ferri i guantini che stava facendo per Carrie. Potevano invece stare a guardare le loro bambole di carta, senza però preparare per loro niente di nuovo. E non era loro nemmeno permesso cucire addosso alle bambole dei vestiti e neppure appuntarli con degli spilli. Le bambine dovevano starsene sedute, calme e tranquille, ad ascoltare mentre la mamma leggeva delle storie tratte dalla Bibbia. O storie di leoni e di tigri e di orsi bianchi lette nel grande libro verde del babbo intitolato Le meraviglie del mondo animale. O potevano stare a guardare delle illustrazioni o tenersi in grembo le bambole di pezzo e conversare con loro. Ma non c'era niente altro che potessero fare. A Laura piaceva più di tutto guardare le figure che c'erano nella grande Bibbia. La più bella di tutte era il disegno di Adamo che dava un nome agli animali. Adamo stava seduto su una roccia e tutti gli animali, grandi e piccoli, si raccoglievano attorno a lui, ansiosi di conoscere a quale specie appartenessero. Adamo sembrava essere molto a proprio agio. Non doveva stare attento a tenere puliti i suoi vestiti, lui, perché quasi non ne aveva. Portava soltanto una pelle attorno alla vita. Ma Adamo ce l'ha il vestito della festa da portare la domenica? Chiese Laura alla mamma. No, disse mamma. Povero Adamo, tutto quello che poteva indossare era una pelle. Ma Laura non aveva compassione di Adamo. Avrebbe invece desiderato non avere nemmeno lei niente altro da indossare che delle pelli. Una domenica dopo cena non ce la fece più. Si mise a giocare con Jack e nel giro di pochi minuti era lì che correva e strillava. Il babbo le disse di sedersi e di stare tranquilla, ma quando Laura si mise a sedere, cominciò a piangere e a scalciare con i piedi contro la sedia. «Odio la domenica!» esclamò. Il papà mise giù il suo libro. «Laura», disse severamente, «vieni qui». Lei strascicava i piedi camminando perché sapeva di meritare una sculacciata, ma quando arrivò vicino al papà, lui la guardò addolorato per un momento, poi la prese sulle ginocchia e la strinse a sé. Quindi tese l'altra mano a Mary e disse: «Ora vi voglio raccontare una storia di quando il nonno era ancora un ragazzo. La storia della slitta, del nonno e del porcellino. Quando tuo nonno era ancora un ragazzo, cara Laura, domenica non cominciava la domenica mattina come adesso, iniziava invece al tramonto del sabato sera. Allora ognuno smetteva qualsiasi genere di lavoro o di gioco. La cena era solenne. Dopo cena il papà del nonno leggeva a voce alta un capitolo della Bibbia, mentre ognuno se ne stava seduto, dritto e ben fermo sulla propria sedia. Poi tutti quanti si inginocchiavano e il loro babbo recitava una lunga preghiera. Quando diceva Amen, tutti si alzavano in piedi e ognuno si prendeva una candela e andava a letto. Si doveva andare dritti a letto, senza giocare, senza ridere e addirittura senza nemmeno parlare. Domenica mattina facevano tutti una colazione fredda perché nulla poteva venire cucinato di domenica. Poi si vestivano con gli abiti migliori e andavano in chiesa. Andavano a piedi, perché sellare i cavalli era anche questo un lavoro. E proprio nessun lavoro poteva venire fatto di domenica. Dovevano camminare lentamente e solennemente guardando dritto davanti a sé, e non potevano scherzare o ridere, e nemmeno sorridere. Il nonno e i suoi due fratelli camminavano in testa, e i loro genitori venivano subito dietro. In chiesa, il nonno e i suoi fratelli dovevano rimanere seduti perfettamente immobili per 2 lunghe ore ad ascoltare il sermone. Non osavano agitarsi sulla panca, che era dura. Non osavano dondolare le gambe, non osavano voltare la testa per guardare le finestre o i muri oppure il soffitto della chiesa. Dovevano rimanere seduti perfettamente immobili e non distogliere mai gli occhi dal predicatore, nemmeno per un istante. Quando la funzione era finita, si rimettevano tutti lentamente in cammino verso casa. Lungo la strada potevano mettersi a parlare, ma non a voce alta, e non potevano ridere né sorridere. A casa mangiavano un pranzo freddo che era stato cucinato il giorno prima. Poi, per tutto il lungo pomeriggio, dovevano stare seduti in fila sulla panca a studiare il catechismo, fino a che finalmente il sole tramontava e la domenica era finita. Ora, la casa del nonno era circa a metà di una ripida collina. La strada andava giù dalla cima del colle fino alla pianura, passando giusto davanti alla porta principale. Ed inverno era il posto ideale per scendere giù con la slitta. E un giorno il nonno e i suoi due fratelli, James e George, si misero a costruire una nuova slitta. Vi lavorarono nei momenti liberi e nel tempo che doveva essere dedicato ai giochi. Era la migliore slitta che si avessero mai fatto ed era così lunga che ci potevano stare seduti tutti e tre in fila, uno dietro l'altro. Decisero di finirla in tempo per farci una discesa. E il sabato pomeriggio, perché ogni sabato pomeriggio potevano giocare per 2 o 3 ore. Ma quella settimana il loro babbo abbatté alberi nei grandi boschi. Lavorava sodo lui e volle che i ragazzi lavorassero con lui. Essi svolsero tutti i lavori della fattoria alla luce delle lanterne e quando il sole si levò stavano già dandoci dentro sodo nei boschi. Lavorarono fino a che non fu buio. E poi ci fu da accudire al bestiame, e dopo cena dovettero andare a dormire in modo da potersi alzare presto il mattino successivo. Insomma, non ebbero tempo di lavorare alla slitta fino al sabato pomeriggio, e vi lavorarono rapidamente e bene quanto più poterono, ma non riuscirono a finirla che quando il sole era già tramontato. Dopo che il sole era già tramontato, non potevano di certo fare una corsa in slitta, nemmeno una. Questo avrebbe voluto dire rompere la santità del giorno di riposo. Così misero la slitta nel ripostiglio dietro la casa in attesa che la domenica fosse finita. Per tutte e due le lunghe ore passate in chiesa il giorno dopo, mentre tenevano i piedi immobili e gli occhi fissi sul predicatore, essi pensarono a quella slitta e a casa, intenti al pranzo, non poterono pensare ancora altro che a quello. Dopo pranzo il loro babbo si sedette a leggere la Bibbia e il nonno, James e George rimasero seduti, fermi e zitti come topolini sulla panca col loro catechismo, ma pensavano ancora alla slitta. Il sole splendeva chiaro e brillante, la neve era liscia e scintillante lungo la strada. La vedevano attraverso le finestre di casa. Era una giornata perfetta per andare in slitta. Guardarono i libri e la Bibbia e pensarono alla slitta nuova e sembrò loro che la domenica non dovesse mai finire. Dopo un bel po' sentirono russare. Guardarono il babbo e videro che la testa gli era caduta indietro contro lo schienale della sedia e che si era addormentato. Allora James guardò George e James si alzò dalla panca e uscì fuori dalla stanza in punta di piedi passando per la porta di dietro. Giorgio guardò il nonno e se ne uscì anche lui in punta di piedi. E il nonno guardò impaurito suo padre, ma se ne uscì anche lui in punta di piedi, lasciandolo lì a russare. Tutti e tre presero la nuova slitta e salirono piano piano fino in cima alla collina. Volevano fare una corsa, solo per una volta, poi avrebbero messo via la slitta e sarebbero ritornati piano piano sulla loro panca coi libri, prima che il babbo si fosse svegliato. James si mise davanti sulla slitta, poi ci si sedette George e poi il nonno perché era il più piccolo. La slitta si mise in moto, dapprima lentamente, poi sempre più veloce. Correva lungo la ripida collina, ma i ragazzi non osavano urlare o gridare. Dovevano passare davanti a casa senza svegliare il babbo. Non si udiva alcun rumore, tranne il lieve sibilo della slitta, veloce sulla neve e il vento che correva via. Poi, proprio quando la slitta stava per scivolare davanti alla casa, un porcello nero, bello grasso, uscì fuori dal bosco. Fece qualche passo fino a mettersi in mezzo alla strada e si fermò lì. La slitta andava così forte che non si poteva fermarla, non c'era tempo per girarla. La slitta andò proprio sotto il maiale e lo raccolse a bordo. Con uno strillo acuto, l'animale si ritrovò seduto su James e continuò a strillare con versi lunghi e sonori: squì, squì! Passarono tutti in un lampo davanti a casa, col maiale seduto davanti e James, George e infine il nonno dietro, e videro tutti il babbo in piedi davanti alla porta di casa che li guardava. Non potevano fermarsi, non potevano nascondersi e non c'era tempo per dire proprio nulla. Andarono giù per la collina col porcello seduto sulle gambe di James che strillava di continuo. Arrivati in pianura si fermarono. Il maiale saltò giù dal grembo di James e se ne scappò via nei boschi, strillando ancora. I ragazzi si misero lentamente e solennemente in marcia su per la collina, misero via la slitta, si infilarono in casa e scivolarono senza far rumore al loro posto sulla panca. Il babbo stava leggendo la Bibbia. Sollevò gli occhi per guardarli e non disse nemmeno una parola. Poi continuò a leggere e loro continuarono a studiare il catechismo. Ma quando il sole tramontò e il giorno di riposo fu finito, il babbo li portò fuori nella capanna nel bosco e li conciò per le feste, prima James, poi George e poi il nonno. Dunque vedete, Laura e Mary, concluse il papà, potete trovare che sia difficile essere buone, ma dovreste essere contente che oggi non sia così difficile come quando il nonno era un ragazzo. Ma anche le bambine dovevano essere così buone? Chiese Laura. La mamma rispose, era anche più difficile per le bambine, perché dovevano comportarsi sempre come delle piccole signore, e non solo di domenica. Le bambine non potevano mai andare in slitta giù per la collina come i ragazzi. Le bambine dovevano stare sedute in casa e imparare dei ricami sempre nuovi. Adesso basta, e lasciate che la mamma vi metta a letto, concluse papà, e così dicendo tirò fuori dall'astuccio il suo violino. Laura e Mary se ne stettero sdraiate nei loro lettini e ascoltarono i canti domenicali, perché nemmeno col violino di domenica si potevano suonare i motivi di ogni giorno. Roccia dei secoli spaccata per me, cantò il babbo accompagnato dal suo violino. Laura cominciava a galleggiare al suono della musica e poi udì dei rumori di stoviglie e c'era la mamma davanti alla stufa che preparava la colazione. Era lunedì mattina. E la domenica non sarebbe tornata di nuovo che dopo un'intera settimana. Quel mattino, quando papà entrò a fare colazione, chiamò Laura e le disse che doveva darle una sculacciata. Dapprima spiegò che quel giorno era il suo compleanno e che non sarebbe cresciuta nel modo giusto per l'anno prossimo se non avesse avuto una sculacciata. E poi la sculacciò, ma con tanta gentilezza e attenzione che non le fece affatto male. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contò e sculacciò lentamente. Una sculacciata leggera per ogni anno e una più grande, l'ultima, per crescere meglio. Poi il papà le diede un piccolo ometto di legno che aveva ricavato da un ramo perché facesse compagnia a Charlotte. Il regalo di mamma furono 5 piccoli pasticcini, uno per ogni anno che Laura aveva trascorso con lei e papà, e Mary le regalò un abito nuovo per Charlotte. Mary aveva fatto da sola quel vestito quando Laura pensava che lei stesse lavorando alla sua trapunta. Quella sera, come omaggio speciale per il compleanno, papà suonò Fuori salta la donnola. Si sedette con Laura e Mary vicino alle sue ginocchia e si mise a suonare. Adesso state a vedere, disse. Guardate bene e magari questa volta riuscirete a vedere la donnola che salta fuori. Poi cantò. Ho un soldo per un rocchetto di filo, un altro per un ago, è così che i soldi finiscono. Laura e Mary si strinsero più vicine a lui, guardando perché sapevano che era vicino il momento. Fuori! E il dito di papà pizzicò una corda. Salta la donnola! E il violino cantò. Ma Laura e Mary Non avevano visto il dito di papà far vibrare la corda. Oh, per favore, fallo ancora! Lo pregarono in coro. Gli occhi azzurri del babbo risero e il violino continuò mentre lui cantava. Lì sul banco del ciabattino la scimmia rincorreva la donnola. Il predicatore baciò la moglie del ciabattino e fuori salta la donnola. Ma nemmeno questa volta avevano visto saltar fuori il dito. Papà lo faceva talmente in fretta che non riuscivano mai a vedere niente. Così andarono a letto ridendo, ascoltando papà che continuava a cantare accompagnato dal suo violino. C'era un vecchio nero che si chiamava Zio Ned e che morì tanti anni fa. Non aveva capelli sulla zucca, dove di solito crescono i capelli. Aveva dita lunghe come le canne di giunco nel boschetto. Ci vedeva a malapena e non aveva denti per mangiare la torta. Così ci doveva rinunciare. Perciò appese al gancio la pala e la zappa, depose il violino e l'archetto e ora non c'è più niente da fare per Zio Ned. Se n'è andato dove vanno i neri buoni.